Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Di ferro, buongiorno intanto da Nicoletta. Generazioni di mamme ringraziano l'eroe del fumetto che ha reso graditi gli spinaci ai bambini. Ma vi siete mai chiesti perché Sigar, che è il papà di Popeye, ha deciso proprio di fargli mangiare gli spinaci e non il tacchino, il popcorn, le banane, il cioccolato? Salutiamo subito il dottor Gianni Bono, storico del fumetto italiano. Buongiorno. Buongiorno. Perché Braccio di Ferro mangia gli spinaci? Bella domanda, perché mangia gli spinaci? Mangia gli spinaci perché in quegli anni in America c'era un po' di crisi di pugilato e quindi Sigar inventa questo personaggio che in realtà è soprattutto uno che cerca rogne, che picchia forte, e il modo migliore per aumentare la sua forza era quello di fargli mangiare gli spinaci, perché si credeva a che punto gli spinaci potrebbero essere forti. Difatti nel motivetto che voi avete appena mandato in onda, Braccio di Ferro dice: sono Braccio di Ferro e sono così forte perché mangio gli spinaci. E da lì ha conquistato tutti i bambini. Ed è lì è stata una cosa incredibile, perché continuavano i bambini a essere appassionati alle sue storie, che le leggevano sui giornali, perché alla domenica i giornali regalavano un supplemento a colori dove i bambini potevano trovare il personaggio preferito. Ovviamente chi era interessato a questo erano i produttori di spinaci. Difatti in casa Sigar arrivavano quantità industriali di casse di spinaci. La signora Sigar non sapeva come fare, cucinava spinaci tutto il giorno, le regalava ai vicini, fin tanto che i vicini hanno detto basta, non ne vogliamo più, perché gli spinaci sono veramente tanti. Ma davvero è stato un fenomeno mediatico importantissimo, tanto che nel Texas, a Chrysler City, dove si producevano davvero tanti spinaci, è stata fatta una statua, eretta una statua a Braccio di Ferro, quindi questo è molto importante. Però si è anche un po' esagerato, cioè i bambini ovviamente mangiavano tanti spinaci e si dice che appunto una mamma avesse scritto a Sigar dicendo: la prego, faccia scrivere a mio figlio da Braccio di Ferro dicendogli che esistono altre ottime cose da mangiare oltre gli spinaci, perché mangia spinaci dalla mattina alla sera. Grazie a Gianni Bono per essere stato con noi. Sì. Quindi tutto parte dal pugilato. Grazie ancora, ma questi spinaci contengono veramente ferro? Fanno venire i muscoli o no? Chi meglio di Marco Bianchi può rispondere a questa domanda? Lo saluto, ciao Marco, benvenuto, bentornato. Buongiorno Nicoletta, a tutti i radioascoltatori. Come stiamo? Noi stiamo bene. Intanto voglio ricordare ai nostri ascoltatori che tu sei ricercatore ed esperto di comunicazione didattica scientifica di IFOM, che è l'Istituto della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di Milano di Oncologia Molecolare, e tra l'altro autore di due libri di cui noi abbiamo parlato spesso: I Magnifici Venti, I Buoni Alimenti che si prendono cura di noi, Ponte alle Grazie Editore, e Le Ricette dei Magnifici Venti, Buoni Piatti sempre che si prendono cura di noi. Allora Marco, iniziamo dagli spinaci. Tu li hai inseriti nella lista dei Magnifici Venti? Ebbene sì, ci sono, però appunto vado anche a sfatare quello che è il mito della grande ricchezza di ferro negli spinaci, perché è vero, in tutte le verdure a foglia verde sono contenuti il ferro, però non sono gli unici vegetali che lo contengono e soprattutto si fanno superare anche da altri alimenti, quindi insomma dobbiamo sempre in qualche modo approfondire, mi raccomando. Senti, una ricetta da provare con gli spinaci invece che in scatola, come li mangiava Braccio di Ferro, magari freschi? Guarda, addirittura io faccio delle polpettine a base anche di pinoli, spinaci e sesamo, che sono fantastiche. Se in più poi le unisci come legante, utilizzi dei cannellini, fai delle polpette praticamente che sono ferro puro. Ferro puro per muscoli. Ma noi oggi parliamo di ferro, sì. Perché vogliamo capire quanto ce ne serve, come dobbiamo alimentarci, perché il ferro lo possiamo assumere attraverso ciò che mangiamo, ma prima vogliamo capire a che cosa serve questo benedetto ferro. In linea con noi abbiamo il dottor Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno dottor Gargiulo e bentornato. Buongiorno Nicoletta, ben trovato, un saluto agli ascoltatori. Allora, il ferro ci serve? Assolutamente, è indispensabile. Il ferro è indispensabile perché in realtà la sua funzione principale è quella di costruire quella molecola bellissima che rende rossi i globuli rossi, che è l'emoglobina, appunto. All'interno del globulo rosso si trova l'emoglobina, in cui il ferro è uno dei costituenti fondamentali. A che serve l'emoglobina? A trasportare l'ossigeno che i polmoni ricevono dall'aria esterna verso tutti i tessuti attraverso la circolazione del sangue. Quindi questi globuli rossi, che sono cellule che servono solo a quello, perché hanno addirittura perso il nucleo, tanto hanno bisogno di spazio per portare l'ossigeno, si spostano lungo il torrente sanguigno per, in funzione del loro ferro, portano queste molecole di ossigeno che danno energia a tutti i nostri tessuti. Insomma, senza ferro noi non potremmo vivere, perché in realtà andremo incontro a dei problemi importanti proprio di ossigenazione e di energia nei vari tessuti. Oh, scusate, ma trovare un taxi, trovare un taxi è stata l'impresa. D'altro canto, io d'altro canto non me la sento a guidare sti giorni, mi sento troppo male. Guarda, ti sei ridotto un cesso. Ma parla piano, dai. Ma sì, sei gonfio, polso, sfatto. Ma tu dimmi, quale donna vorrebbe uscire con un uomo così, eh? E poi si usa sempre di tormentarti. Malattie, disturbi, medicine. E ci sono momenti in cui ci sentiamo uno straccio e momenti in cui sono gli altri a ricordarcelo. Siete pallidi, stanchi, fate fatica a concentrarvi, avete un po' di batticuore, poco appetito, o qualcuno, come abbiamo sentito dal breve estratto del film, vi fa notare che non siete al massimo. Potrebbe essere colpa del ferro. Potrebbe, perché l'ipotesi va verificata. C'è modo di farlo con un semplice esame del sangue. Ne parliamo col professor Bruno Brando, direttore del laboratorio di ematologia e centro trasfusionale dell'ospedale di Legnano. Buongiorno professor Brando. Buongiorno a lei Nicoletti e a tutti gli ascoltatori. Professore, sarò anemica? Ma basta sospettarlo. Clinicamente l'hai detto molto bene, i sintomi orientativi, poi basta un piccolo esame del sangue per poterlo chiarire in maniera precisa. L'esame emocromo, che è sempre il primo esame di tutte le serie che vengono prescritte, già parla di molte cose, ci dice quanta emoglobina c'è, che è il dato più importante, e ci permette anche di capire le caratteristiche dei globuli rossi, il loro numero e le loro dimensioni. Ma questo già può essere sufficiente in molti casi. Nel caso specifico della carenza di ferro ci sono degli indizi che vengono dall'emocromo, per esempio le dimensioni dei globuli rossi, che rimpiccioliscono se la carenza è importante, ed è per quello che bisogna associare all'emocromo anche gli esami per il bilancio del ferro. Sono tre esami che vanno fatti sempre insieme per poter capire le cose: la sideremia, che misura la quantità di ferro circolante, un po' come dire i soldi che abbiamo nel portafogli, il ferro rapidamente scambiabile. Sì. La ferritina, che è invece la espressione del nostro conto in banca, il ferro delle scorte, e la transferrina, che è quel trenino che trasporta il ferro dove deve essere utilizzato e ci dice soprattutto quanta parte dei vagoni è impegnata dal ferro. Ecco, con questi tre esami possiamo chiarire molto bene e rapidamente lo stato delle scorte di ferro, che sono spesso molto carenti nelle donne in giovane età per le mestruazioni, per le diete, per anche così l'autoimposizione di regimi alimentari non sempre del tutto congrui. Professor Brando, quindi è la ferritina il nostro conto in banca, no? Quello che dobbiamo osservare con maggior attenzione, o no? Esatto, la ferritina è proprio quello che rappresenta il grosso del nostro bilancio. Il ferro è facilissimo da perdere ed è molto difficile da rimpiazzare, questa è una notizia che bisogna sottolineare sempre. Perché possiamo avere i sintomi che abbiamo citato, la stanchezza, la mancanza di concentrazione, la tachicardia, ma non sempre questi disturbi sono presenti o si avvertono in modo chiaro. Noi donne, ad esempio, in età fertile tendiamo a perdere ferro, ma il nostro corpo in qualche modo si adatta. Certo, più è lungo il processo, più l'adattamento si consolida. Ci sono persone che cominciano ad avere sintomi soltanto in condizioni di grave anemia, l'esempio che ha fatto lei è tipico della donna, poi possiamo dire la super mamma italiana impegnatissima a portare in giro i figli, che non bada a se stessa, mangia male, mestrua incredibilmente e alla fine la crisi, no? La crisi è proprio quello il problema. L'adattamento va bene finché non interviene qualche cosa che ci mette in crisi, una frattura, una malattia, una infezione. Professor Brando, chi deve controllare il ferro e ogni quanto? Allora, il medico di famiglia è la persona più indicata perché conoscendo la persona e valutandola può benissimo fare questi esami che sono di portata di chiunque, sono comunissimi in tutti i laboratori, ecco, soprattutto in chi ha dei fattori di rischio, per esempio mestruazioni molto abbondanti, fibromi uterini, o chi ha celiachia, malassorbimento, o nell'anziano le problematiche delle perdite intestinali da poliposi, da diverticoli e quant'altro. Bambini pallidi, mi scrive Aurelia, saranno anemici? È possibile. La celiachia, per esempio, è la prima cosa da pensare in un bambino pallido, ma anche il bambino che mangia male, disordinatamente, è sempre da tenere d'occhio da questo punto di vista. Il pallore chiaramente è il primo sintomo, ma può anche non avere sempre l'anemia come base. Professor Brando, grazie per essere stato con noi, la ringrazio, la saluto. Lei li mangia gli spinaci? Assolutamente sì. Adesso proverà anche la ricettina di Marco Bianchi. Grazie, buongiorno. Grazie, buona giornata. Per curiosità, ti ricordi che cosa hai mangiato oggi in messa? Oggi a mezzogiorno, aspetta, un panino con la maionese. Esatto. E oggi un panino alla maionese, domani un panino col ketchup. Però ho mangiato il dolce, wow, fantastico il dolce. Ah, grazie. E che cosa hai preso, la mia mousse al cioccolato con gli amaretti o la panna cotta? Ho preso uno yogurt. Dottor Gargiulo, torniamo al ferro. Adesso è quasi l'ora di pranzo, sappiamo che il ferro si assume con la dieta. Quanto e cosa dobbiamo mangiare per mantenere il bilancio in equilibrio? Vogliamo fare degli esempi pratici? Sì, allora diciamo subito, la quantità di ferro che dobbiamo assumere varia dai 10 ai 12 mg a seconda di uomini e donne e raddoppia o triplica addirittura in gravidanza. Per cui per assumere questa quantità di ferro, che sembra poca cosa, in realtà bisogna poi mangiare abbastanza. Facciamo un po' degli esempi. Uno degli alimenti che è più ricco di ferro sono ad esempio le vongole cotte, però considerate che per avere i 12 mg servono 50 grammi di vongole, per cui 50 grammi di vongole sgusciate non è che siano pochissime. È un bel piattone, eh? È un bel piattone, perché poi noi siamo abituati a mangiare gli spaghetti con le vongole. Esatto, quindi ecco, quello che è importante considerare quando si valutano gli alimenti per il loro contenuto in ferro è anche la quantità che se ne può mangiare. Di spinaci, ad esempio, che contengono poco, perché contengono circa 2-3 mg di ferro per 100 grammi, ovviamente è più facile mangiarne magari 200 grammi, perché lo spinacio una volta cotto riesce a essere mangiato con più facilità. Ancora possiamo vedere le carni sono abbastanza ricche di ferro, soprattutto la carne di maiale è ricca di ferro, quindi anche lì possiamo trovare nel mago del maiale una quantità di ferro sufficiente, ma in realtà è diviso ed è distribuito anche abbastanza bene. Una cosa importante è fare una valutazione differenziata fra il ferro che è immediatamente disponibile, che è quello che si trova appunto nelle carni, e quello delle verdure, che deve essere poi trasformato dal nostro organismo, quindi fatichiamo un po' di più, ne dobbiamo prendere e assumere un po' di più. Però io direi che se nell'arco della settimana, almeno 2 o 3 volte, se non ci sono altri problemi, assumiamo delle carni rosse, se mangiamo delle verdure a foglia verde, se facciamo un'alimentazione molto varia e se aggiungiamo anche sostanze che possono facilitare questo assorbimento di ferro, è chiaro che a questo punto andiamo, riusciamo spediti a mantenere un buon bilancio senza ingrassare. Altro che braccio di ferro. Roberto, da Casale Monferrato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Io appunto volevo sentire la differenza tra ferro M e non M, in quanto sono vegetariano, e appunto mi hanno informato sul fatto, mi sono informato sul fatto che il ferro non M presente nei vegetali effettivamente è da elaborare, il nostro corpo lo deve elaborare, ma allo stesso tempo è quello che si disperde anche più difficilmente. Volevo avere una conferma da voi. Allora, Marco, puoi aiutare il nostro ascoltatore magari suggerendogli degli accorgimenti per rendere il ferro più assimilabile? Ma guarda, Nicoletta, molto volentieri. Questo perché è un invito a nozze per te, lo so. Sì, nel senso che mi ritrovo anche molto nell'ascoltatore come stile di vita, quindi mi preme subito dire che il ferro di derivazione animale viene appunto definito eme ed è creduto però superiore in termini di biodisponibilità rispetto a quello non eme, quello vegetale. Però la biodisponibilità del ferro, quindi quanto il ferro poi viene assimilato e utilizzato dal nostro organismo, è scarsa soltanto se manca contemporaneamente anche l'apporto di vitamina C, e non soltanto, nel senso che il ferro infatti viene assorbito, viene reso biodisponibile dal nostro organismo facilmente se è presente vitamina C e anche un insieme di altre sostanze che sono molto importanti nel nostro organismo. Queste sostanze sono dei minerali come il rame, il cobalto, il manganese appunto e la vitamina E oltre a quella C. Quindi è veramente un mix è una pozione magica che ci permette in qualche modo di avere un ferro biodisponibile pronto e quindi per essere poi in salute. Come diceva il dottor Gargiulo, è importante anche una dieta varia, anche per un vegetariano ad esempio, e una dieta varia vuol dire comunque che comprenda, che so io, appunto i legumi innanzitutto, e magari condirli sì con un buon succo di limone. Piuttosto che pranzare o cenare e introdurre sempre nella propria dieta un bel bicchiere di spremuta di arancia rossa, ad esempio un ottimo modo, un consiglio per tenere il cuore sano, visto che le antocianine dell'arancia rossa appunto favoriscono un sistema cardiovascolare ad hoc e poi ci aiuta anche ad assimilare meglio il ferro. E inoltre introdurre comunque nella nostra dieta sì a pesce per coloro che possono mangiarne, che vogliono mangiarne, ma anche il cioccolato, i cereali integrali, sono tutti prodotti che comunque contengono una buona quantità di ferro, quindi una dieta equilibrata anche in queste utilizzando anche questi alimenti è veramente un tocca sana, io direi. Guarda Nicoletta, senti Marco, a proposito di vitamina C, che quindi abbiamo visto che è utile per rendere il ferro più assimilabile, dottor Gargiulo, quindi gli spinaci, l'insalata, mettiamo un pochino di limone e questo ferro che magari non è tanto presente negli spinaci, ma insomma lo assumiamo di più. Vorrei farvi una domanda: è tempo di agrumi, che sono ottime fonti di vitamina C, e a proposito di agrumi, contiene più vitamina C l'arancia rossa o l'arancia bionda? La prima risposta al nostro numero verde 800 24 00 24 riceverà a casa il libro di Marco Bianchi, Le ricette dei magnifici 20, buoni piatti che si prendono cura di noi. Ma dato che oggi parliamo di ferro, abbiamo visto che la vitamina C va a braccetto, ecco la seconda domanda. C'è più ferro in 100 grammi di latte vaccino o in 100 grammi di latte di mandorla? A questa seconda domanda, la risposta all'800 24 00 24, a questa seconda domanda riceverà a casa invece l'altro libro di Marco, I Magnifici 20, buoni alimenti che si prendono cura di noi. Dottor Gargiulo, ci sono invece delle sostanze che remano un po' contro il ferro? Ma sì, ci sono delle sostanze che possono ridurre l'assorbimento di ferro, in particolare più che delle sostanze ci sono delle condizioni patologiche che possono creare questa riduzione dell'assorbimento di ferro. Ad esempio è caratteristica l'anemia da carenza di ferro nei soggetti che abusano di alcol, perché la gastrite alcolica può determinare questo problema. Ancora quella che è la carenza del cosiddetto fattore intrinseco, che impedisce l'assorbimento del ferro a livello gastro-duodenale, ovviamente può creare dei problemi di questo tipo. Ancora importante però è ricordare che esistono anche delle situazioni in cui c'è un eccesso di ferro, quindi sì, non bisogna dimenticare anche questo, perché in realtà anche lì noi erano abituati, adesso meno, le nostre mamme a chiedere per i loro figli la curetta di ferro al cambio di stagione. Insomma, bisogna stare un po' attenti, perché a volte si rischia di dare troppo ferro con degli integratori quando il ferro lo possiamo tirare fuori da una sana alimentazione. Marco, tè, caffè, fibre possono inibire l'assorbimento del ferro? Allora, in parte sì, potrebbero, soprattutto anche le fibre appunto contenute nei cereali integrali, quindi è un po' a volte una controindicazione, però nel giusto equilibrio, quindi anche nelle giuste quantità, non ci sono problemi di assorbimento, specie se la dieta è veramente varia, quindi direi di no. Insomma, se veramente seguiamo una dieta sana, equilibrata, nelle dosi, nelle quantità e appunto in tutto quello che possiamo avere dalla natura, quindi se siamo tranquilli che la nostra dose di ferro riusciamo veramente ad averla. Ma nonostante, anche se la nostra dieta è varia e equilibrata, ci sentiamo in questo momento un po' stanchi, ce lo fanno notare gli altri, siamo un po' pallidini, le unghie, i capelli sono fragili, chiamateci 800 24 00 24, attingeremo dagli alimenti di Marco Bianchi e dalla competenza del dottor Gargiulo per mettere un po' a posto la situazione. Adesso è tempo di mercati, Pino ci chiama da Treviso. Pino, buongiorno. Buongiorno a voi. Vieni a sentire i mercati e il meteo con me che poi ritorniamo insieme. Va bene. Grazie Pino. Essere e benessere. Cartone, ve la ricordate, Francesco Renga, che avremo prossimamente qui in studio con noi, dico forse, incrocio le dita, ma intanto abbiamo Pino che ci sta aspettando dai mercati. Pino, buongiorno, ribongiorno. Allora Pino. Mercati bene, allora io volevo solamente dire che non ci sono integratori che tengano, è meglio una buona bistecca di cavallo. E lo spezzatino, e le garantisco che come ferro non ci supera nessuno. Dottor Gargiulo, direi che lei aveva parlato anche del maiale. Per chi non fa una scelta vegetariana, l'apporto di ferro contenuto nella carne è interessante. Sicuramente, appunto, come dicevamo, questo famoso ferro M che riesce più facilmente, penetra più facilmente, viene assorbito meglio. Senz'altro io sono d'accordo che quando si può sostituire, evitare l'integrazione alimentare, ma fare una dieta sana e quindi scegliere bene gli alimenti è molto meglio. In alcuni casi però non dimentichiamoci che serve un'integrazione di ferro, soprattutto in donne in età fertile che spesso hanno delle carenze importanti perché hanno delle mestruazioni importanti. E anche in gravidanza, vero dottor Gargiulo? Solitamente le donne in gravidanza assumono ferro. Abbiamo Massimo che ci chiama da Verona, in gravidanza non è. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io in parte la risposta l'ho già avuta prima perché sono un donatore e questa primavera mi hanno fermato perché avevo la ferritina bassa. Ferritina, dottor Gargiulo, come ci aveva detto il professor Brando, è praticamente il deposito, come i soldi che abbiamo in banca, ecco, il ferro che abbiamo in deposito. E Massimo è stato fermato perché ce l'aveva alta. Perché, dottor Gargiulo? Dunque, io avevo capito bassa, però diciamo, se aveva la ferritina Massimo, alta... ce l'ha alta o ce l'ha bassa, insomma? Abbiamo capito. Massimo? Bassa. Aveva ragione come sempre il dottor Gargiulo. Ferritina bassa vuol dire che chiaramente ha consumato il suo conto in banca, ha esaurito il suo conto in banca, non aveva più contanti, cioè non aveva più ferro in circolo e l'organismo ha richiamato in circolo il ferro. Il nostro organismo fa delle scelte, delle priorità. Il ferro che va nei globuli rossi è prioritario e quindi quello dei depositi viene mobilizzato quando serve. Giusto fermare la donazione, una buona cura a base di ferro, eventualmente anche con vitamina B e acido folico, per recuperare i globuli rossi, migliorare la situazione, recuperare i depositi in banca, magari potessimo farlo con il nostro conto corrente. Quella e se... via si riparte. Marco, puoi dare un'indicazione a Massimo da Verona, qualche ricettina per recuperare il ferro, per ritornare in equilibrio? Abbiamo detto, ricordiamoci anche della vitamina C che rende il ferro dei vegetali più disponibile, ma... Allora, di sicuro, guarda, un buon hummus di ceci o una particolare mousse di fagioli, tonno e cipolla può sicuramente aiutare il nostro amico a recuperare un po' di ferro e soprattutto anche non farsi mancare qualche noce, qualche nocciola e perché no banane, sedano e germe di grano, perché l'olio di germe di grano, ad esempio, contenendo anche tanta vitamina D ed E, permette una migliore assimilazione assimilazione poi del ferro. Quindi, come si diceva prima, è veramente un vero mix di benessere atto a migliorare la quantità di ferro presente. Mi viene anche da dire una nota abbastanza personale. Anche mia moglie era leggermente anemica, ad esempio, sì. Dopo una bella cura che abbiamo fatto a base proprio di legumi e di pesce, è veramente tornata ad essere la donatrice che era un tempo. E tutto questo pur non mangiando ad esempio carne, perché non ne mangiamo in casa. Quindi in generale si può veramente recuperare anche in breve tempo, perché nell'arco di qualche mese è tornata ad essere veramente in formissima, direi. E avrà anche capelli ed unghie più belli, più forti e più sani, perché certo. Come Marco saprà, tu lo sai benissimo, ma ai nostri capelli il ferro piace. Devo dire che non solo il ferro, ma ci facciamo raccontare tutto dal professor Fabio Rinaldi, dermatologo a Milano e presidente della fondazione di ricerca per i capelli. Buongiorno professore, buongiorno. Ai capelli piace il ferro, carenze di ferro noi possiamo vederli, i capelli diventano più fragili, tendono a cadere di più e le unghie si spezzano, ma ecco, non è solo colpa del ferro. No, non è solo colpa del ferro. Il ferro sicuramente è importantissimo, tant'è vero che quando si visita qualcuno, si sente qualcuno che perde, soprattutto donne, che perdono capelli magari anche per cicli brevi, non lunghissimi, vale la pena fare una valutazione del ferro e della ferritina, che è la proteina che la trasporta, sì. Perché è importante. Non in tutte le patologie dei capelli, quindi solo laddove c'è qualche cosa che può essere che manchi nella forma di energia. I capelli sono delle cellule a potentissima energia, hanno bisogno di un sacco di energia, quindi appena manca qualcosa cominciano a soffrire. Però sicuramente, così come il ferro è indispensabile lo zinco e altri minerali, ma ancora di più per formare bene il fusto e la vita del capello sono indispensabili gli aminoacidi. E gli aminoacidi, che sono quelle cose per cui quando si scopre un frammento di aminoacido su Marte si dice forse abbiamo scoperto la vita, che sono la base della vita cellulare, e sono gli aminoacidi importanti come la valina, la glicina, la fenilalanina, l'ornitina, tantissimi. Tutti quelli che finiscono in ina, ma dove li troviamo? Li troviamo, sentivo prima parlare dei legumi e io consiglio, io non sono un alimentarista, ma consiglio tantissimi legumi, li troviamo nella carne, li troviamo nella bresaola, in tutto quello che è il muscolo animale, li troviamo in molte verdure, per cui li troviamo nella frutta secca. Quindi sembrerebbe semplice nutrire bene i nostri capelli e le nostre unghie, poi sì, vediamo che nella realtà spesso quando qualche cosa non va, quando siamo stressati, siamo stanchi, abbiamo un periodo un po' difficile, i nostri capelli ce lo dicono subito. Sì, anche perché purtroppo mentre il corpo reagisce velocemente alla carenza, come si diceva prima, i capelli sono veramente complicatissimi, per cui cominciano a soffrire, stanno male, e ora che si reintegra questa attività ci vuole tantissimo tempo. Allora l'ideale è non andare in forte carenza e mantenere livelli buoni, perché sennò ci mette tanto prima di ristare, certo. Bene un'altra volta. Professor Rinaldi, prima di scappare mi dà un consiglio ad Anna, che ha le unghie che si spezzano? Se non è ferro, mi scrive Anna, che cosa potrà essere? Aminoacidi, quindi via di legumi? Via di legumi, oppure in casi importanti, perché se ci fosse questa fragilità molto importante, questa rottura della lamina molto importante, sempre escluso che non ci siano altri problemi, magari certo. Glielo dice il dermatologo, ci sono degli integratori che valgono per il periodo in cui uno ha bisogno emergenza, degli integratori che contengono tanti aminoacidi. Una sorta di SOS, una specie di SOS, perché poi è meglio mangiare bene. Meglio mangiare bene. Però l'integratore quando serve, serve. Grazie professor Rinaldi per essere stato con noi. Grazie a voi. Marco, tesoro mio, salviamo i ragazzi, il mio non c'è, ma tesoro, salviamo i ragazzi, è il tuo nuovo programma, partirà domani, io sono molto contenta su Fox Life. Sono anch'io molto molto emozionato a partire con questa avventura, tesoro salviamo i ragazzi, sarà in onda da domani sera ogni venerdì alle 22 su Fox Life, che è il canale 114 di Sky. Ecco, un docu-reality, dottor Gargiulo, Marco, correggendo lo stile dei ragazzi, in effetti corregge lo stile di tutta la famiglia, ecco, quando si dice, si prende due piccioni con una fava, con questo docu-reality tu sistemi un po' le famiglie italiane. Sì, in poche parole entro nelle case degli italiani che hanno appunto un cattivo stile di vita e a sua volta solitamente associato anche a chili di troppo e appunto sparpagliati anche su tutta la famiglia, e intervengo in che modo? Insomma, facendoli sudare un po' di più, quindi introduciamo lo sport finalmente, che va a condire tutto quanto il programma, e poi ovviamente una corretta e sana alimentazione. Vado a far riscoprire piatti che magari vengono tralasciati, non vengono neanche considerati in molte famiglie, malgrado siano gustosi, ricchi comunque di colore, di consistenze, di sapori molto, molto importanti, a discapito ovviamente dei grassi, quelli saturi, quelli più dannosi per l'organismo. Allora, noi adesso dobbiamo fermarci per andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Molti di voi si stanno candidando per rispondere alle nostre due domande. Dovete scegliere quale delle due, perché una potete rispondere a quella sull'arancia, potete rispondere a quella sul ferro, latte di mandorlo, latte vaccino. Un terzo libro a disposizione per gli ascoltatori che ci stanno seguendo e stanno scrivendo su Facebook, quindi io vi aspetto col dottor Gargiulo, che ci aiuterà, facendo tesoro anche delle ricette, delle indicazioni di Marco, a sistemare un pochino la dieta dei nostri ragazzi. Spesso sono carente di ferro, ma non solo. E via con le vostre domande all'800 24 00 24. Grazie. Essere e benessere. Dottor Gargiulo, abbiamo detto ferro, attenzione alle donne in età fertile, ma i nostri ragazzi quanto a ferro, come stanno? Ed è solo il ferro che dobbiamo tenere sotto controllo, o per un organismo in crescita è necessario tenere un po' la situazione, allargare un po' il nostro campo d'analisi? No, il campo d'analisi va allargato sicuramente. Diciamo che come ferro mediamente i maschi non stanno messi male, almeno per quello che vedo io tra i miei pazienti. Per le ragazze invece no, il problema è un pochino più importante, come dicevamo. Per i ragazzi il problema più grosso comunque in questo momento è invece il grasso, ma questo è un dato di fatto. Mangiando male, mangiano troppe sostanze grasse che poi alla fine influiscono su tutto l'organismo e su tutti i metabolismi. E l'altra cosa importante che bisogna tenere d'occhio è anche gli zuccheri, la glicemia, perché sono ragazzi che consumano molte bevande zuccherate, a volte anche l'utilizzo di alcolici, quindi di prodotti che alla fine si riflettono sui metabolismi e creano problemi di questo tipo. Carenze vere e proprie, carenze vitaminiche, no. Direi che probabilmente no, con la nostra alimentazione è difficile trovarne, e però, quando le troviamo forse sono più legate a patologie tipo la celiachia, magari una celiachia certo. Nascosta. Il problema dei nostri ragazzi, che è anche un po' nostro, è che spesso mangiamo molto ma siamo nutriti poco, nel senso che ad esempio anche i ragazzi mangiano pochi cereali integrali. Marco, tu glieli farai mangiare ai tuoi ragazzi? Li farò mangiare, sì, e ti assicuro che insomma piacciono, perché ho fatto un po' di esperimenti, e anche camuffandoli, insomma nascondendoli in altri tipi di vegetali, andiamo a creare dei piatti molto, molto appetitosi. Si parlava prima anche di capelli, ad esempio introduciamo il farro, che ad esempio è ricco degli 8 aminoacidi essenziali, quindi fa bene a 360 gradi, e anche verrà introdotto in molte famiglie dove magari non è mai stato acquistato prima del mio arrivo, quindi sì. E come diceva il dottor Gargiulo, giustamente c'è un accumulo di grassi e zuccheri molto spesso, quindi sono anche bambini soggetti ad essere futuri diabetici, futuri obesi, quindi c'è veramente da perché da si mettersi. Raccoglie quello che si semina, eh? Sì, assolutamente. Abbiamo in linea con noi Paola, ci chiama da Avellino, 800 24 00 24. Paola, buongiorno. Vorrei rispondere al primo quesito. Sì. Immagino che sia pressoché uguale, insomma, la quantità di vitamina C contenuta nelle arance bionde o in quelle rosse. Credo che sia solo una differenza di pigmento. No, mi dispiace Paola, non è la risposta corretta, che poi ci faremo dare nel dettaglio da Marco Bianchi, ma non è così. C'è una dei due tipi che è più ricca di vitamina C. 800 24 00 24. Andiamo ad Angelo, che ci chiama dalla provincia di Padova. Buongiorno. Nico, sono l'Angelo Perego. Anzitutto l'Angelo Perego, buongiorno. Un mio amico alla radio. Che non ho sentito. La risposta alla prima domanda è l'arancia bionda. E l'arancia bionda, Marco Bianchi? Io non voglio, perché è un mio amico di... sono quasi emozionata. Marco. Cosa facciamo, Nicoletta? No, sei tu il giudice, se è vero è vero, se è falso è falso. È falso, purtroppo è l'arancia rossa. No. Ai, ormai ci ha bruciato, è vero, è l'arancia rossa. Angelo, mi dispiace. Quindi il loro medico non lo sa. Grazie, è l'arancia rossa. Adesso Marco ci farà ricevere a casa qua a Radio 24 qualche libro in più, perché noi vogliamo darlo agli ascoltatori che anche su Facebook avevano indovinato e quindi non possono rimanere a bocca asciutta. Gli vogliamo dare delle arance rosse che tra l'altro aiutano anche a dimagrire, è vero? Marco? È verissimo, certo. Rispondo io? Sì. Guarda, volentieri, anche perché... È una ricerca IEO molto interessante, ma vorrei che tu la raccontassi ai nostri ascoltatori. Non è che abbiamo il pallino dell'arancia rossa, ma l'arancia rossa è stata studiata e hanno visto che ha degli effetti anticiccia, diciamola sì. Così. Ha degli effetti anticiccia perché, per fortuna, insomma, riesce a ridurre quella che è l'assimilazione, quindi l'assorbimento dei grassi. Quindi, soprattutto se poi mangiamo, ci nutriamo di qualcosa di grasso in un pasto e lo accompagniamo, ad esempio, ad una spermuta fresca, non zuccherata, di arancia rossa, ha un effetto praticamente di ridurre quello che sarà poi l'assorbimento dei grassi che abbiamo introdotto. E invece tutti i giorni nella nostra dieta favorisce proprio, oltre che fortificare il cuore, come avevamo detto prima, a ridurre anche il giro vita, perché a lungo andare ha questo piacevole effetto. E questo piacevole effetto piace molto al dottor Gargiulo, in generale a tutti i medici. Sì. Perché, certo. Dottore? Perché il grasso che si accumula intorno alla vita, al giro vita, è quel grasso più pericoloso che rende, ahimè, più predisposti verso le malattie cardiovascolari, l'infarto in particolare. Quindi sfatiamo la leggenda del pompelmo che brucia i grassi e diciamo che l'arancia rossa brucia i grassi. Dottor Gargiulo, lei mi piace molto. Patrizia, buongiorno da Milano. Sì, Patrizia, ciao. Guarda, io sono nelle sue mani, perché io se sforo, Carmelo mi taglia. Io poi litigo con Carmelo e altro che arancia rossa. Qua ce n'è... Quindi faccio una domanda veloce, prestissima, concisa. Sì. Ok, io sono portatrice di anemia mediterranea, quindi ho l'emoglobina sempre bassissima. Mi hanno dato a vita una terapia di ferro e di acido folico. E la mia domanda è, ma non può poi diventare troppo? Dottor Gargiulo. Eccoci, dunque intanto deve controllare sempre il ferro, perché non è detto che nell'anemia mediterranea ci sia una carenza di ferro, potrebbe anche non esserci questa, ma il ferro che c'è non venire utilizzato, quindi è indispensabile un controllo costante del ferro prima di assumerlo a vita. Dopodiché, se è carente di ferro e ha l'anemia mediterranea, può integrare anche con degli integratori o con dei prodotti a base di ferro, se no non servono quelli, perché l'anemia mediterranea è proprio una anemia legata ad un'alterazione dei globuli rossi, per cui non è una carenza di ferro e basta. Andiamo a Matteo, che ci chiama da Cremona. Matteo, buongiorno. Sì. Buongiorno, volevo rispondere alla domanda sul latte. Ah, perché quella sull'arancia ce l'ha già data Marco, questo è il nostro tesoro, salva i ragazzi, domani su Fox Life, vero Marco? Vero, confermo, ore 22, mi raccomando, seguite. Chissà perché anch'io siamo qua tutti che incrociamo le dita per portarti buona fortuna, in bocca al lupo, ma Matteo, latte di mandorla o latte di bacino, quale dei due ha più ferro? Io penso il latte di mandorla. Bravo Matteo, il latte di mandorla, quindi a Matteo i magnifici 20 buoni alimenti che si prendono cura di noi. Ponte alle Grazie Editore, anche su Facebook Filomena e Dario hanno risposto correttamente alle nostre domande, quindi Marco Bianchi paga pegno e ci fa avere a casa qua in via Monterosa i suoi libri, vero Marco? Assolutamente, anche perché noi portiamo buono, dottor Gargiulo, la ringrazio. Grazie a lei Nicoletta, grazie agli ascoltatori, è sempre un piacere stare con voi. Anche da parte nostra, torni spesso e presto a trovarci. Benissimo. Marco, noi saremo con te, ti vedremo e ti seguiremo. D'accordo. d'accordo, allora ci vediamo domani sera, vi aspetto su Fox Life, tesoro, salviamo i ragazzi. Va bene. Sei... Marco, tocca ferro che porta no. bene. Tocca ferro, tocca, tocchiamo ferro, grazie a voi che ci avete seguito. Bacio. Un bacio. Buongiorno dottor Gargiulo, noi ci salutiamo e io vi do come sempre appuntamento a domani, vi aspetto su Facebook, sul Daily Lab, Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, devo andare, scappo via. Essere e benessere.